21:09, Slick Chick su Radio Wombat, ovviamente sulla frequenza 13:59 in AM, onde medie, sempre che riusciate ad ascoltarla, oppure in streaming dal sito wombat.noblogs.org, oppure se ci state ascoltando in differita attraverso il podcast, sempre probabilmente l'avrete trovato su wombat.noblogs.org. Questi i contatti di questa radio meravigliosa che ormai da un annetto e mezzo vi allieta le giornate, e i Bronski Beat ci hanno introdotto oggi alla puntata di Slick Chick, che come avrete intuito forse parlerà di guerra, visto il periodino che stiamo vivendo, anche se effettivamente io a me non viene in mente un momento in cui si potesse dire che non eravamo in guerra, un momento in cui si poteva dire oh che bello, non ci sono guerre, in effetti si sta proprio bene, ma guarda come si sta bene in questo momento. Non esiste, io non ho 1000 anni, ma anche nella mia giovane vita direi che proprio non me lo so ricordare, e probabilmente forse nessuno se lo ricorda. Guerre lontane, guerre vicine, comunque guerre, e quindi l'argomento è vastissimo, ovviamente, perché per fortuna in tantissimi hanno parlato della guerra, perché è un qualcosa che non può non influenzare la musica, la cultura, l'arte, tutto quello che ha a che fare con l'animo umano, e chiaramente in tantissimi fortunatamente ne hanno parlato male, anche perché veramente sarebbe bizzarro pensare di poter parlare bene della guerra. Quindi canzoni e canti antimilitaristi come se piovesse stasera a Slick Chick, puntata del, non ve l'ho detto, ma del 18 aprile, mercoledì 18 aprile, e per voi che ci ascoltate fedeli in diretta. Bronski Beat quindi con No More War, giusto per appunto contestualizzare bene, per far capire fin dall'inizio cosa ovviamente pensa Radio Wombat della guerra, e l'album The Age of Consent del 1984, anno cruciale per la musica e non solo. Proseguiamo subito, perché la scaletta chiaramente è un bel po' lunga, devo dire ho dovuto faticare per fare una cernita, perché se da un lato non volevo far sentire le ovvietà che riguardano le canzoni di protesta o in generale la musica antimilitarista, d'altra parte comunque qualcosa di classico dovevo pur farvelo sentire. Iniziamo qui, perché abbiamo iniziato con i Bronski Beat, ma continuiamo con Phil Hawks e la sua I Ain't Marching Anymore del 1965, l'inno dei sit-in contro la guerra nel Vietnam, così viene definita, effettivamente era proprio così, per la quale peraltro Hawks venne bandito dalla programmazione radio e TV in tutti gli Stati Uniti. Lo vedremo, gran parte della musica che ci ascolteremo oggi è stata bandita e censurata dalle radio e dagli altri mezzi di comunicazione culturali nei vari paesi, non a caso, e non ci aspettavamo niente di meno. Una delle più celebri canzoni di protesta contro la guerra di tutti i tempi è di fatto un inno alla diserzione, ma ne sentiremo parecchi altri di inni alla diserzione nel corso della puntata. Ho marciato alla battaglia di New Orleans alla fine della prima guerra contro l'Inghilterra, ho ucciso la mia parte di indiani in 1000 battaglie differenti, ero lì a Little Big Horn, ho udito tanti uomini in agonia, ho rubato la California alla terra messicana. Ho combattuto nella sanguinosa guerra civile, ho marciato alle battaglie nelle trincee tedesche, in una guerra che avrebbe fatto finire tutte le guerre. Oh, devo aver ammazzato 1 milione di uomini e adesso mi vogliono ancora. Ho volato nella missione finale nel cielo giapponese, ho fatto partire il potente boato del fungo, e quando ho visto le città bruciare ho capito che stavo imparando a non voler più marciare. Oh, I marched to the Battle of New Orleans. Plains at the end of the early British wars. The young land started growing, the young blood started flowing, but I ain't a marching anymore. For I killed my share of engines in a thousand different fights. I was there at the little big horn. I heard many men lying, I saw many more dying, but I ain't a marching anymore. It's always the old to lead us to the wars, always the young to fall. Now look at all we've won with a saber and a gun. Tell me, is it worth it all? For I stole California from the Mexican land, fought in the bloody Civil War. Yes, I even killed my brothers and so many others, but I ain't a marching anymore. For I marched to the battles of the German trench in a war that was bound to end all wars. Oh, I must have killed a million men and now they want me back again, but I ain't a marching anymore. It's always the old to lead us to the wars, always the young to fall. Now look at all we've won with the saber and the gun. Tell me, is it worth it all? For I flew the final mission in the Japanese skies, set off the mighty mushroom roar. When I saw the cities burning, I knew that I was learning that I ain't a marching anymore. Now the labor leaders screaming when they close the missile plant. United Fruit screams at the Cuban shore. Call it peace or call it treason, call it love or call it reason, but I ain't a marching anymore. No, I ain't a marching anymore. E beh, d'altra parte Phil Hawks non era Bob Dylan, non era John Baez. Beh, Bob Dylan gli sarebbe piaciuto di essere come Phil Hawks, personaggio scomodo anche per la stessa controcultura degli anni 60, personaggio, ahimè, finito piuttosto male perché è morto suicida negli anni 70 e scandalizzò un po' tutti, anche la sua scena, la cosiddetta scena controculturale hippie degli anni 60. E, proseguendo nella nostra carrellata contro la guerra antimilitarista, ovviamente, arriviamo a un brano piuttosto bizzarro, nel senso che non è esattamente quello che ci aspetteremo. Martin de Vandellas, I Should Be Proud, che è una protest song cosiddetta, viene chiamata così, del 1970, la prima protest song pubblicata dalla Motown, qualche mese prima di War di Edwin Starr e di Ball of Confusion dei Temptations. La Motown non è assolutamente nota per il suo impegno dichiaratamente e diciamo esplicitamente politico, non era, ecco, un'etichetta di processed song per l'appunto, eppure il momento lo richiedeva e anche Martha and the Vandellas hanno fatto uscire questo pezzone veramente bello e probabilmente abbastanza sconosciuto almeno rispetto agli altri loro. È la storia di una donna che sente alla radio la notizia che il suo uomo, diciamo così, alla soul, diciamolo, è stato ucciso in un'azione mentre combatteva in Vietnam. E lei dovrebbe esserne orgogliosa, should be proud, dovrebbe sentirsi fiera del fatto che il suo amante sia stato ucciso combattendo per lei. E invece no, non ne è fiera per niente, perché a lei non importava assolutamente nulla che lui se ne andasse a combattere, non certo per lei, ma per quelli che lei chiama i malvagi della società. Ovviamente questo pezzo, ma che ve lo dico a fare, è stato bandito e censurato da ogni radio. I was under the dryer when the telegram came. Private John C. Miller. Somewhere. Oh. I shipped him home with medals of honor and glory. Even our local paper ran a front page story. Siete emozionati o emozionate con questo meraviglioso soul, vi colgo la palla al balzo per invitarvi a una bellissima serata soul che ci sarà questo sabato 21 aprile al CSA Next Emerson, all'interno della Due Giorni Brugole e Merletti edizione 2018, festival che va avanti da qualche annetto, Due Giorni di workshop pratici e mani in pasta, Due Giorni che valgono secondo me piuttosto la pena di muovere il culo da casa e sporcarsi un po' le mani, per cui vi leggo il programma, che comunque è un programma densissimo ma provvisorio, in continuo aggiornamento, che potete leggere nella sua interezza con tutti i dettagli, orari e spiegazioni al sito doityourtrash.noblogs.org. E il programma è questo: sabato 21 aprile a partire dalle 11 di mattina, impianto luci di emergenza con il fotovoltaico recuperato e poi l'arte di riparsi la bici senza zen. E a seguire dalle 15, puntualissimi, alimentatore da banco smontando un computer, saldatura elettrodo, loop antenne per il radioascolto, Serpi Canaro e il cuscito creativo, Commodore 64 Nostalgia, Gold Mining, Radio Wombat DJ Contest, è qui che ve lo dico a fare, bigiotteria da una bicicletta, Teremino digitale, saldatura a stagno, stampa a timbro con la ruggine, incisione su linoleum. Poi dalle 21, se ancora non siete morti, 10 minutes speech corner e serata musicale con Emerson Setters Sound System e Calibro 7 pollici, serata dedicata interamente al soul e ovviamente regno e assoluto dominio di Soul Time e del suo fantastico vombato DJ. Prosegue poi il programma il giorno dopo, domenica 22 aprile, solo il pomeriggio, mi raccomando non vi presentate la sera dopo cena perché trovate chiuso, dalle 15 fino alle 20 si proseguono i workshop e i tavoli del giorno prima e poi a nuovi workshop e contenuti più che altro musicali con quadernettificio, il teatrino elettrico, circuit bending, matinée, no input mixing, afroviados e orchestra Balenazzi. Tutto questo prossimo fine settimana a Firenze ovviamente e al Next Emerson. Vi invito quindi ad esserci assolutamente. La cena del sabato 21 aprile è benefit per la vostra radio preferita, che non è una radio commerciale ma è una radio autoprodotta, autofinanziata, quindi se deve finanziare con i benefit, quindi aiutateci a sostenerla venendo anche a questa copiosa cena che sarà ricchissima e buonissima. Bene, detto ciò, proseguiamo con la nostra scaletta combattiva. In realtà combattiva in maniera un po' traslata, ecco. Altro classicone sempre degli anni 70, inizio anni 70, gli Area. gli Aria, beh, non potevano non comparire in questa scaletta. Ovviamente il pezzo è Luglio, Agosto, Settembre Nero. L'album è Herbert McFry del 1973, parole di Frankenstein, pseudonimo dietro al quale si cela Gianni Sassi, il produttore degli Aria, e musica di Patrizio Fariselli, ispirata a una canzone popolare greca della Macedone. E spiegava Stratos nel 1974: il contenuto politico, secondo me, c'è anche senza che io dica noi facciamo un pezzo per i compagni palestinesi. In radio non ci hanno mai trasmesso, chiaramente tutti avevano dei blocchi morali, si scandalizzavano perché abbiamo fatto un pezzo che si chiama Settembre Nero, ovviamente. Habibi, bisalam. بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصرية جوكاري كولموندو Se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un disapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Gente colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Cerca nelle cose l'essenzialità. Non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità. Ma 1936, el pueblo se alza como un vendaval, camina sin miedo contra el capital, comunismo libertario, revolución social. Mientras se vuelve a defender, se bate como un león, en la retaguardia los cobardes preparan la traición. Burócratas y estalinistas caminan ya de la mano, forjando las cadenas que pondrán a sus hermanos. El pueblo se alza como un vendaval, camina sin miedo contra el capital, comunismo libertario, revolución social. Los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! Sin Dios, 1936, Un pueblo en armas. L'album è Guerra alla guerra del 1997, giusto per parlare della guerra da un'altra angolazione, decisamente. E un'altra angolazione ancora ce la offrono invece i Wretched. Non potevo non metterli. Spero che venga la guerra. Spero venga la guerra. L'EP 7 pollici, in nome del loro potere, tutto è stato fatto, del 1983. Spero venga la guerra con i suoi orrori e le sue stragi. Solo allora capirai che potevi fare qualcosa. I Wretched, per chi non li conosce, sono stati un gruppo punk hardcore italiano, milanese, degli anni 80. Il punk, il primo punk italiano del nord Italia, perlomeno legato in particolare al virus, il centro sociale, il posto, l'occupazione dei punk milanesi dei primi anni 80. Il gruppo, insieme a Crashbox, Maze, Disperazione e tantissimi altri, era un po' l'anima della scena punk hardcore lombarda e in generale di quella italiana del periodo, e insieme anche ovviamente ai torinesi Blue Vomit, Nell'Orgasmo, Indigesti, Raw Power, Peggio Punks, Negazione, Declino e mille altri che staremo ore qui se dovessi elencarli tutti. Fondamentalmente i Wretched si ispiravano ai gruppi anarcho-punk britannici del momento, essenzialmente Sister Jay Cress, e oltre ai testi molto diretti e molto politicizzati in una direzione anarco, antimilitarista, libertari, eccetera. E di fatto però hanno costruito poi tutta la scena, la controcultura di quel momento, anche da un lato di autoproduzioni, quindi hanno caratterizzato e dato un po' il via, insieme a tanti altri gruppi del momento, alla scena di DIY e alle autoproduzioni, per cui si riusciva a stampare e a produrre musica fuori dal mercato per la prima volta, e quindi sono riusciti a dare un po' l'inizio a quella che è stata di fatto poi una piccola rivoluzione che per tantissimi di noi ha voluto dire molto e tuttora continua a vuol dire tantissimo. Quindi i Wretched, sentiamoci questi 48 secondi di Wretched. Spero che la guerra non si sarà la stragi, sarà la cantina che vuole rimanere qualcosa. per restare nello stesso stile, direi, sulle stesse frequenze, con quello che penso sia stato un chiaro omaggio ai Wretched, al pezzo che ci siamo appena ascoltati. Questi invece erano i Ronin con Venga la guerra, l'album L'ultimo re del 2009. Proseguiamo e veniamo a quella che è probabilmente la canzone antimilitarista più famosa di sempre, o perlomeno una delle. Le Deserteur, il disertore, che Boris Vian scrisse in maniera piuttosto feroce, piuttosto agguerrita, probabilmente riferendosi in particolare alle guerre francesi di quel momento, la guerra di Indocina appena conclusasi con la disfatta di Dien Bien Phu e la guerra d'Algeria che stava iniziando proprio in quegli anni. Allora, c'è un qualcosa di molto interessante riguardo a questo brano che forse non tutti sanno. La strofa finale che abbiamo sempre ascoltato dice: dite ai vostri gendarmi che mi troveranno disarmato e possono anche spararmi. Quindi da lì inno pacifista di sempre, usato e abusato moltissimo. Ed è impressionante perché l'originale finiva invece in tutt'altro modo, perché Boris Vian originariamente aveva scritto: prévenez vos gendarmes que je serai en arme et que je sais tirer, ovvero avvertite, avvisate i vostri gendarmi che sarò armato, mi troveranno armato e che so sparare. Il che ne faceva una canzone tutt'altro che pacifista, almeno nell'accezione comunemente abusata, ed è interessante come poi invece sia stata tramandata di fatto ribaltando completamente il senso, almeno nella conclusione. Il manoscritto della canzone di Boris Vian porta la data del 15 febbraio del 1954 e viene pubblicata a data più pare casuale, a me pare strano che sia una data casuale, comunque il 7 maggio dello stesso anno del 54, giorno della disfatta della Francia nella battaglia di Dien Bien Phu, che segna la fine della guerra di Indocina, come dicevamo prima, e trasmessa quello stesso giorno nella versione interpretata da Marcel Mulody per la prima volta in radio. Succede un casino, chiaramente, malgrado le numerose modifiche via via apportate al testo. Ad esempio, scompare non soltanto la strofa finale originale, ma anche tutti i riferimenti al presidente della Repubblica francese, sostituito da dei più generici Monsieur con nom grand. E nel gennaio del 1955 il consigliere municipale in parigino Paul Faber ottiene la censura completa della canzone in radio. E quindi, scusate, eliminata dalla diffusione radiofonica e discografica, Le Deserteur cade, diciamo così, nel dimenticatoio, e per averla cantata, fra l'altro, Marcel Mulody subisce una sorta di esilio decennale della canzone francese. La censura viene tolta soltanto nel 1962, quindi un bel po' di anni dopo, ma ormai Boris Vian è morto da 3 anni. Nel 1966, con lo sviluppo delle protest song e con i moti di Berkeley in particolare, viene ripresa da Peter, Paul & Mary, peraltro nella versione edulcorata, che era quella appunto interpretata da Mulody, che abbiamo visto essere abbastanza diversa dall'originario spirito con cui l'aveva scritta Boris Vian. Diviene così la canzone simbolo che tutti di fatto conosciamo. La versione originale invece non è mai stata, quella appunto con la frase famosa, non è mai stata né trasmessa né incisa, sebbene alcune versioni delle canzone, come quella in berbero di Ferhat Mehenni o quella in russo di Bokhov, la riprendano volutamente. Noi ci ascoltiamo la versione di Ferhat Mehenni, e versione che appunto non è mai stata incisa, almeno io non sono riuscita a trovarla, ma ho trovato un live, non è proprio facilissimo trovarla, quindi insomma ascoltatevela. Ferhat Mehenni è nato il 5 marzo del 1951 nel villaggio di Maragna, ora il mio algerino è veramente orribile, perdonatemi, nella regione di Asasga in Kabilia, in Algeria appunto. La sua infanzia ha coinciso con il periodo della guerra anticoloniale, nel quale il padre, resistente contro i francesi, morì nel 1961. Farhat inizia a fare musica cantando delle sue montagne, dei villaggi algerini, degli uomini partiti per lavorare nelle città francesi e invece di quelli testardi che erano rimasti a casa. La vita politica e le rivoluzioni di quegli anni però ne fanno una delle voci più importanti della canzone politica algerina. E la vita di Farhat è un lungo susseguirsi di arresti, torture, pestaggi, rapimenti e tragedie dovute alla sua lotta per l'indipendenza del suo popolo. L'ultima di queste tragedie è stato l'omicidio del suo figlio maggiore, Amezian, accoltellato a Parigi nel 2004, perché si tratta di avvenimenti che non sono assolutamente finiti e non sono assolutamente lontani nel tempo. Probabilmente è stato accoltellato e ucciso come avvertimento mafioso per lo stesso Farhat. Tra le carte lasciate del figlio, Farhat ha scoperto che Amezian, che lo aveva accompagnato a Milano per un concerto nell'estate del 2002, era entrato in cioè aveva conosciuto in quell'occasione alcuni canti della resistenza italiana e aveva in progetto di trasporre Bella Ciao in kabilo, quindi nella lingua berbera. Farhat si è quindi sentito in qualche modo in dovere, comunque ha voluto esaudire questo desiderio del figlio ed ha trasposto Bella Ciao, che almeno che io sappia non è mai stata registrata, almeno non fino adesso, e che ha eseguito, ovviamente potrete immaginarvi con che spirito e che con quale emozione, nel corso della cerimonia di sepoltura del figlio. Quindi questa è la versione del disertore di Farhat. ويذكي ضيحك من أونين الغبرات وسمة ثغر مات ما تستفهم ولاش ديان زيت فضلك وغضني لكن هذا دولة سكريو هذا دفع وفيت مورفيو ذو غلاد الكيرنيم زيادي مقرنان وتكل بريف الليم يما وكور بيد الجيم لكن هذا نبغي نذنان قولي يصفى الدنيا داعية وقفنا ناسين يرقزنا مثيل وين داراني وثوى بركام فتشيني قسمي دمشفاو يقموثني قبابثن يقجق حين قثمثن انا غيب وجي لمثوران اي مروم تفي يما فينا هاتشي دينا رد نحكوم ولا غزرون تاديروم وفي ذا شي بالسلم نكي جربا لحبوس لاني يبشرني كسني كم طوزيو كثني قرن بروس أزكازي كاد كرغ أسرغ ذبنا طيول ضغيغ غريبي ويغول وسنك ويثمدو غدا زويل زغام تزلي دمان إذا من أنا ونكون ويل أزوير فيك ونن فرحانه ميدت تدم في الليل اني في جدار ميان يفسني ودي الموان ما بغانا ينغن نغني J. Harvey e John Parish, The Soldier, l'album è Woman Man Walk By del 2009. Siamo, beh, direi a due terzi della scaletta di oggi dedicata alla guerra. Abbiamo un po' passato in rassegna varie guerre generiche e specifiche ed è interessante come appunto la Francia, per esempio, tornando al disertore di prima, poi di fatto negli anni dopo eletto le déserteur di Boris Vian come uno dei suoi inni e poi però la storia che stava dietro e anche quella che c'è stata davanti, poi purtroppo ci ha portato a pensare tutt'altro di questo paese, estremamente nazionalista, estremamente colonialista, e che non ha mai perso la voglia di colonizzare gli altri paesi e di assurgersi a padrone degli altri paesi. Proseguendo nella nostra rassegna, un po' triste devo dire, ma questo è evidentemente, parlando di guerra, non poteva essere diversamente, arriviamo a Cartwheel con musical. Questa volta Cartwheel un pochino ci risolleva. Musical è Johnny Johnson del 1936, quindi negli anni 30, in piena ascesa del nazismo, Cartwheel insieme a Paul Green produce un musical di satira antimilitarista intitolato Johnny Johnson, appunto. E Cartwheel dichiarò di essersi ispirato al romanzo di Jaroslav Hesek, The Good Soldier Sveik. La mia pronuncia è un po' così. La versione di Cartwheel è incentrata sulla figura di un soldatino americano, un pischello americano, chiamiamolo così, che riesce a fermare una guerra usando il gas esilarante. Ovviamente gli altri militari non ne sono assolutamente contenti e riescono a rinchiudere il soldato dal cuore tenero in un manicomio, un bellissimo manicomio. Quindi ci ascoltiamo, tratto da questo musical, Johnny Johnson, Captain Valentine's Song. Into my private boudoir, disturbing the sleep of a lady, an innocent one. So sorry, the soldier replied, I'll honorably step outside. I meant no offense in the least, and it was only in fun. Up spake the lady demure, if fun and not robbery, sir, is what you intend, then perchance and perhaps you may stay. I confess on my oath, most stiffly inclined to them, both was my will, and they say with their will, like my will, there's a way. Yeah. Parlavamo di classiconi e ce n'è un altro da ascoltarci. Beh, ce ne sono diversi ancora previsti in scaletta, almeno un paio, ma questo sicuramente è uno dei più conosciuti. 1919 Luft Balloons di Nena del 1983. E se per caso qualcuno non ha riconosciuto subito al volo di cosa si tratta, penso che alle prime note di questa canzone per forza dovrebbe illuminarvi, accendervi sì, una lampadina in testa, altrimenti avete dei problemi e insomma correte ai ripari. Ad ispirare l'autore del testo l'autore del testo, Carlo Carges, fu un concerto dei Rolling Stones che si era tenuto a Berlino Ovest negli anni 80, appunto, al termine del quale pare che furono lanciati in aria migliaia di palloncini che una volta saliti tutti in aria sembravano quasi prendere la forma di un'astronave. l'autore del testo appunto pensò, quindi ci si fece un po' un trip e disse: boh, ma pensa un po', se in piena guerra fredda nella quale noi ci troviamo qui nella ridente Berlino Ovest, a un certo punto al di là del muro hanno visto la stessa cosa, questi stessi palloncini, chissà se hanno avuto la mia stessa impressione, che cosa gliene è sembrato. Da lì ne venne l'idea e lo spunto per comporre un brano contro la guerra, un brano essenzialmente profondamente antimilitarista. La canzone parla appunto di questi 99, un'azione immaginaria dimostrativa di 99 palloncini che vengono liberati in aria e che vengono poi intercettati da un radar e vengono scambiati per un terribile attacco aereo da parte di una forza aliena. E quindi il generale del caso inizia a dare l'allarme, va in panico, tutti si fanno prendere dall'ansia, i militari impazziscono e decidono e danno l'ordine di abbattere questi oggetti terribili che cascano dall'alto. E appunto tutto questo trambusto per fondamentalmente 99 palloncini colorati. Il testo più o meno dice questo, tra l'altro: 99 ministri di guerra, fiammifero e benzina. Pensavo fosse gente furba che già fiutava un l'autobottino. Gridarono guerra e vollero potere. Uomo, avresti pensato che saresti arrivato fino a questo punto per 99 palloncini? 99 anni di guerra. Non c'è posto per i vincitori. Non ci sono più ministri, né jet. Oggi mi faccio i fatti miei. Vedo il mondo caduto in rovina. Ho trovato un palloncino. Penso a te e lo lascio volare via. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons, und dass sowas von sowas kommt. We'll be right back. Questa era Nena con 1990 Luft Balloons, oppure 1990 Red Balloons, come è stata poi tradotta nella versione in inglese. Se vi capita tra le mani, vi consiglio anche questo primo album dei Nena e il suo gruppo, che oltre a questa hit cosiddetta aveva dei pezzi niente affatto male al suo interno. Ma proseguiamo con tutt'altro genere, perché facciamo volendo, beh, gli anni sono gli stessi, però prima ci aveva dato un po' un assist il pezzo dei Wretched e ora lo raccogliamo un po' di tempo dopo con i Cress. 1982, How Does It Feel, o nella sua versione estesa, How Does It Feel to Be the Mother of 100 Dead. Un pezzo diretto personalmente al ministro britannico Margaret Thatcher, scritto al momento della guerra nelle Falkland. La guerra nelle Falkland fu probabilmente un evento minore nella storia dell'America, ma fu invece un punto cruciale nella storia inglese di quegli anni, portandosi via almeno 1000 vite. Cosa hanno voluto dire le Falkland lo spiega molto bene, più di qualsiasi discorso e parola, This is England, il film di Shane Meadows, che penso non mi smetterò mai di elogiare. Del singolo dei Cress si parlò addirittura in Parlamento, nel Parlamento inglese, chiedendone la censura perché osceno. Ma la disputa finì sotto al tappeto, diciamo così, perché dopo che il leader dei conservatori Tim Hedgar fu umiliato dai Cress in un dibattito pubblico alla BBC. Hey! You can stop your fucking wall! E i morti nelle Falkland non erano 1000, ma magari erano 1000, 1000, non 100. Io mi confondo sempre con i numeri inglesi, abbiate pazienza. Vi ricordo i social Wombat, un po' ve li ho già ricordati all'inizio della trasmissione: wombat.blogs.org, il sito, 13:59 in onde medie la frequenza, e la casella di posta, postawombat@insiberia.net, a cui scriverci. Non ci scrivete come hanno fatto e ci ha fatto ridere assai per chiederci lavoro, no, noi siamo una radio non commerciale che non ha una lira per piange, volutamente, quindi fuori da ogni logica commerciale di lavoro, se Dio vuole, e quindi no, non vi possiamo, ahimè, dare nessun lavoro. E Chumbawamba sono il prossimo gruppo che ci racconta un po' della guerra. Jacob's Ladder, l'album è Ready Mates del 2002. Jacob's Ladder, ovvero la scala di Giacobbe, è un termine di derivazione biblica utilizzato per definire una lunga e variegata serie di concetti, di figure e di oggetti. Secondo le interpretazioni più comuni, la scala è la parabola dell'ascensione al cielo e della discesa del divino fra gli uomini. E effettivamente non si capiva bene, anche se il testo di Chumbawamba è piuttosto diretto ed è piuttosto anche rabbioso, non si capiva bene sta scala di Giacobbe cosa c'entrasse, e sono gli stessi Chumbawamba a spiegare la metafora in questo modo. Winston Churchill lasciò morire 1591 marinai dopo che le loro imbarcazioni erano state affondate al largo delle coste della Norvegia dagli incrociatori tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale. Churchill ritenne che un tentativo di salvataggio avrebbe allertato i tedeschi su l'evacuazione della famiglia reale norvegese, e così ordinò alle navi che si trovavano nell'area di abbandonare gli uomini che stavano annegando. D'altra parte, la famiglia reale norvegese vale ben 1591 marinai, no? La nota a pie di pagina dei giorni nostri, continuano i Chumbawamba, potrebbe essere l'affondamento del sottomarino russo Kursk. I marinai sono affogati perché il presidente Putin ha anteposto l'orgoglio nazionale alla possibilità di rivolgersi a squadre di soccorso straniere. La scala di Giacobbe, insomma, strumento di salvataggio nautico utilizzato per salvare persone in pericolo di annegamento, di fatto, giace in fondo al mare, inutilizzata da Churchill, da Putin e anche da Bush, che usano le vite e le guerre per i loro abbastanza ovvi e noti scopi. Questi, quindi, sono i Chumbawamba. Nobody wonders, because nobody knows. to the wars to be slain, to be slain. And they sent him to the wars to be slain. On this Jacob's ladder, the only way up is down. 3 days in the water, watching all the secrets drown. On this Jacob's ladder, the only way up is down. Ci rimangono due brani ancora da ascoltare in questa scaletta di Slick Chick, puntata dedicata alla guerra. Il primo di questi due brani è 30 Seconds Over Tokyo dei Pere Ubu. L'album è 390 gradi of Simulated Stereo del 1981. Il titolo della canzone, probabilmente anche la canzone stessa, sono ispirati al film del 1944 di Mervyn Leroy, scusate, ora il francese mi pervade. 30 Seconds Over Tokyo, appunto, omonimamente, interpretato da Spencer Tracy, Van Johnson e Robert Walker. Il film è il resoconto della preparazione e dello svolgimento della cosiddetta Operazione Doolittle, il primo raid aereo americano su Tokyo. La sceneggiatura del film è di Dalton Trumbo, che fu per le sue idee di sinistra, chiamiamolo così, tra le principali vittime del maccartismo. E i Pere Ubu, cioè, Ubu, non mi riesce manco a dire le vocali, ce l'hanno raccontato così. In the haze of dawn, in a metal dragon lost in time, the skimming waves of an underground sea, in some kind of dream world fantasy. On a hot circle on a canopy, a 25 a racing mile bright green sea. Ahead the dim blur of an alien land, and time to give ourselves to strange gods and in the sky, reaching twisted claws on every side, and no place to run, no place to hide, no turning back on a suicide ride. The tar city streets crawling through my sides and sprouting clumps of mushrooms like a world surreal. Now this dream won't ever, ever end, and time seems like it'll never be again. 30 seconds and a one-way ride, 30 seconds and a place to hide, 30 seconds and a one-way ride, 30 seconds and a place to hide. 30 seconds over Tokyo, 30 seconds over Tokyo, 30 seconds over Tokyo, 30 seconds over Tokyo, 30 seconds over Tokyo, 30 seconds over Tokyo, 30 seconds over Tokyo, 30 seconds over Tokyo, 30 seconds over Tokyo, 30 seconds over Tokyo, 30 seconds over Tokyo, 30 seconds over Tokyo, 30 seconds over Tokyo. E con questi disturbanti Pere Ubu siamo arrivati alla fine di questa scaletta di oggi dedicata alla guerra di Slick Chick. Siamo all'ultimo brano, il più classico dei classici, proprio il pezzo che non poteva mancare, che forse aspettavate, se non l'aspettavate tanto ve lo beccate lo stesso. War Pigs dei Black Sabbath, ovviamente, anche se ve li ho rivocati anche nella scorsa scaletta, i Black Sabbath non potevano mancare, perché d'altra parte War Pigs è irrinunciabile. L'album ovviamente è Paranoid del 1970, doveva essere la title track dell'album War Pigs, ma la casa discografica rifiutò e optò per il più innocuo titolo Paranoid, appunto. Questa versione che ci ascoltiamo però adesso non è quella ufficiale, quella originale dei Black Sabbath. Ce ne sono moltissime di versioni ovviamente di War Pigs, un'altra bellissima è quella dei Faith No More, ma quella che ho scelto è la versione live, perché non credo sia mai stata registrata se non dal vivo, dei Dresden Dolls, che ne hanno fatto una versione live bellissima che vi consiglio assolutamente, e vi consiglio anche di andarvi a vedere il video, perché vabbè, oltre a un meraviglioso da tanti punti di vista Brian Viglione, batterista incredibile in questo pezzo, e anche una bravissima Amanda Palmer ovviamente, ma proprio vederli suonare è tutto un altro spettacolo. Quindi vi consiglio di andarvelo a vedere, tanto si trova un po' ovunque. War Pigs versione Dresden Dolls. E con questo vi do la buonanotte, buon proseguimento di serata, come dicono quelli seri. Ci riascoltiamo mercoledì prossimo, oppure in replica quando volete. Ciao ciao! Just like witches at black masses. darkness world stops turning.